strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti, da Massimo De Donato. Si è tenuta lo scorso 18 febbraio la riunione del secondo gruppo di lavoro istituito nell'ambito del tavolo automotive per il sostegno al settore durante il suo percorso verso la mobilità sostenibile. Durante l'incontro al MISE, presieduto dal ministro Patuanelli, è stato illustrato l'attuale stato delle infrastrutture di rifornimento e di ricarica sia a livello nazionale sia europeo. Inoltre è stato analizzato il fabbisogno necessario a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati per il 2030. Nuove nomine nella sezione motorsport di Anfia: Andrea Bernoni di OZ Racing e Marina Sonzini di SAS Rollbar entrano a far parte dell'associazione come coordinatori dell'area dedicata ai mezzi da competizione sportiva. La sezione motorsport, nata nel 2016, si è progressivamente ampliata fino a comprendere oggi ben 18 aziende della filiera. Maserati annuncia i piani di sviluppo e produzione della nuova gamma elettrificata. Tutti i nuovi modelli del Tridente saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia. Adotteranno sistemi a propulsione elettrica, ibridi e a batteria, senza dimenticare le prestazioni e il feeling di guida tipico del brand. I poli di riferimento saranno Modena, il quartier generale del Marchio, Mirafiori e Cassino. Da questi partiranno l'ibrida Ghibli, le nuove generazioni elettriche di Gran Turismo e Gran Cabrio e un nuovo utility vehicle. E sempre a proposito di elettrico, ascoltiamo quali sono i programmi di Volkswagen. Il futuro di Volkswagen sarà solo elettrico. La casa tedesca ha deciso di tracciare una strada CO2 neutral, a zero emissioni, e di rinunciare ai motori termici entro il 2040, investendo oltre 30 miliardi di euro nell'elettrico da qui al 2024. Per avviare il periodo di transizione, quello che è stato definito una sorta di staffetta tra le varie tecnologie, Volkswagen ha dato via a una piattaforma flessibile e modulare, MEB, una car line trasversale al gruppo che, abbracciando tutti i marchi, da Volkswagen ad Audi, da Seat a Skoda, permetterà di produrre entro il 2029 circa 20 milioni di veicoli elettrici su base MEB in tutto il mondo. La flessibilità di questa piattaforma consentirà di creare modelli di carrozzerie differenti, dalle vetture medie ai SUV, senza trascurare le utilitarie. Quali sono le case automobilistiche più coinvolgenti e seguite sui social media? Quali contenuti e le strategie editoriali più efficaci? La risposta a questi interrogativi arriva dal top 15 stilata da Sense Market, che vede sui primi tre gradini del podio Mercedes, BMW e Lamborghini. Al centro della classifica, in ordine, Porsche, Ferrari, Audi, Land Rover, Jaguar, Maserati, Bugatti, Jeep e Bentley. Una ninna nanna cantata dal motore. Le frequenze basse e medie prodotte dal motore endotermico hanno comprovati effetti rilassanti sui bambini. E così Nissan, in collaborazione con un team di ingegneri del suono, ha creato una ninna nanna per aiutare i più piccoli ad assopirsi nelle auto elettriche che, come sappiamo, sono molto silenziose. La traccia risultante, Nissan Leaf Dream Drive, dal nome dell'elettrica del brand, è disponibile su tutti i servizi di streaming musicale. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di una nuova alleanza, un'alleanza digitale, potremmo chiamarla, fra Enjoy e Waze, e cioè fra il car sharing. Uno dei più importanti operatori del car sharing è quella che è la piattaforma riconosciuta in qualche modo degli automobilisti e di chi si muove per le strade per condividere informazioni, un'alleanza di cui parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Dario Mancini, Regional Manager Italia Indimea di Waze. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo con il raccontare, prima di passare a questa notizia, che cos'è Waze e perché è diventato sempre di più un'app installata sugli smartphone degli automobilisti. Allora, Waze è l'app di navigazione alimentata dalla più grande comunità di automobilisti al mondo. Quindi, diciamo, la peculiarità della nostra app è proprio quella di essere alimentata da una comunità di persone. Che cosa ha significato questo? Che da un punto di vista storico, diciamo, quando è stata fondata l'app, i navigatori, diciamo, non erano aggiornati in tempo reale. Quindi si poteva anche trovare, diciamo, la strada migliore per raggiungere un punto A, per muoversi da un punto A a un punto B, ma magari si sarebbe potuto trovare del traffico o rimanere imbottigliati. Aggiungendo tramite la comunità informazioni in tempo reale, ovviamente si è riusciti a ovviare a questo problema cercando di migliorare proprio la qualità degli spostamenti. Ecco, quali informazioni vengono condivise su questa piattaforma? Allora, vengono condivise le informazioni diverse, parliamo da informazioni classiche come il traffico, oppure vengono condivisi per esempio incidenti, oggetti pericolosi sulla carreggiata, fino addirittura a poter segnalare buche in strada o semafori che non funzionano. Quindi tutto ciò che riguarda la sicurezza e il migliorare la mobilità può essere segnalato dalla comunità. Certo, veniamo a questo accordo con Enjoy, in che cosa consiste? L'accordo con Enjoy consiste in un'integrazione tra le due app, in cui basta scaricare l'app di Waze, ovviamente avere anche l'app di Enjoy. Quando io inizio il noleggio attraverso l'app di Enjoy, vedrò un'icona Waze all'interno dell'app Enjoy. Quindi significa che proprio nel momento esatto in cui ho svolto tutte le mie pratiche, iniziando il mio noleggio, posso aprire Waze e muovermi in modo agevole nella città o dovunque io debba andare. All'interno di Waze, una volta finito, diciamo, il noleggio, vedrò l'app di Enjoy, quindi potrò tornare senza soluzione di continuità direttamente nell'app Enjoy. In questo modo, fondendo le due app e dando un servizio aggiuntivo al cittadino attraverso una tecnologia integrata. Certo, veniamo un po' al mercato italiano, quello che in qualche modo lei rappresenta. Come è cresciuto in questi ultimi anni? Quanti sono oggi gli utenti di questa piattaforma? Sì, allora noi, diciamo, non condividiamo i numeri a livello del mercato italiano. Comunque la piattaforma è cresciuta in modo molto importante. A livello mondiale abbiamo raggiunto più di 130 milioni di utenti unici al mese, con una comunità di map editor che è anch'essa cresciuta in modo importante negli ultimi anni. E se posso dare magari giusto un numero riguardante l'Italia, quest'estate siamo arrivati addirittura, immagini, solo in Italia a guidare più di 600 milioni di chilometri nel mese di agosto, ovvero più della distanza media tra terra e sole in un solo mese. Quindi questo per dare l'idea della magnitudine del tempo speso all'interno dell'app. Un mese sicuramente trafficato come appunto quello di agosto. Noi lo vogliamo ricordare, questa è un'app gratuita per gli utenti, che vive di pubblicità, credo, così come sopravvivono e vivono tutte le piattaforme digitali in questo momento. Voi però avete stipulato anche degli accordi con delle istituzioni, con delle municipalità ad esempio, per supportare i servizi di queste ultime. Assolutamente, proprio come diceva lei, noi abbiamo l'app è assolutamente gratuita e vive attraverso la pubblicità, attraverso l'advertising online. Quindi noi vendiamo destination marketing alle aziende, ed è proprio per questo che siamo riusciti, come filosofia, a condividere i nostri dati. Comunque siamo seduti su una mole enorme di dati di traffico che condividiamo in modo gratuito con le municipalità, in questo scambio di dati bionivico che viene regolato da un programma che si chiama Waze for Cities. Quindi dove c'è uno scambio di dati in cui noi diamo tutti i nostri dati in tempo reale alle municipalità, loro possono aggiungere le chiusure stradali, se ci sono degli eventi programmati nella città, quindi rendendo poi un servizio al cittadino finale. E questo veramente è un'attività che raggiunge più di 2 miliardi di persone a livello mondiale. Abbiamo raggiunto, credo, superato i 1000 partner, quindi veramente è un'attività molto interessante. Ecco, tutti noi conosciamo questa piattaforma. Quali sono le ipotesi di sviluppo e di crescita per i prossimi anni? Quali servizi pensate di aggiungere rispetto a quelli che già ci sono oggi? Allora, il percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni è quello di trasformare la nostra applicazione da una navigation app a una vera e propria transportation company. E quindi abbiamo lanciato a livello internazionale in questo momento negli Stati Uniti, in Brasile, in Messico, in Israele, un servizio di carpooling, proprio perché vogliamo tentare di avere un impatto sulla mobilità per come è adesso, quindi cercare di ridurre il numero dei veicoli in strada, risparmiando l'infrastruttura esistente che sta diventando sempre più esigua e riducendo ovviamente in questo modo anche il numero delle emissioni per un discorso di protezione dell'ambiente. Quindi questo sicuramente è il cammino che abbiamo intrapreso con la missione di diminuire il traffico a livello mondiale e di farlo subito, non aspettando futuribili tecnologie, ma avere un impatto immediato. Bene, e allora noi seguiremo con grande attenzione questa evoluzione, l'evoluzione di questa comunità Waze. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Dario Mancini, Regional Manager Italia IMEA di Waze. Noi continueremo però ad occuparci di tecnologie digitali, lasciamo una comunità per parlare di map, perché nel prossimo spazio, tra pochi secondi, parleremo di Google Maps e delle ultimissime novità di questa piattaforma di navigazione. A tra poco. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come vi anticipavo nel corso del precedente spazio, ci dedichiamo ora a Google, in particolare a Google Maps, che compie 15 anni quest'anno. Pensate, ce l'abbiamo tutti sul nostro telefonino, lo utilizziamo da moltissimo tempo e invece è molto più di quello che pensavamo, perché sono 15 anni che Google ci accompagna con le indicazioni del traffico. Ovviamente c'è stata un'evoluzione in questi anni che l'ha portata a diventare davvero un punto di riferimento importante per chi si sposta soprattutto in città, e ci sono anche delle novità che sono state introdotte per festeggiare questo compleanno. Di tutto questo parliamo oggi in compagnia della nostra ospite Emanuela Locci, responsabile della comunicazione di prodotto di Google Maps. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie a te per avermi invitato. Cominciamo con il raccontare che cosa è successo in questi 15 anni con le mappe di Google. Guarda, la vera e propria, diciamo, evoluzione di Maps si è avuta nel concetto di base. Google Maps è nato per aiutare le persone ad andare da un punto A ad un punto B, quindi fondamentalmente a spostarsi in un determinato ambito. Adesso, nel tempo, le funzionalità che sono state integrate ci hanno permesso di utilizzare Maps in maniera totalmente diversa, soprattutto per esplorare quello che c'è intorno all'area in cui ci muoviamo. Ti faccio un esempio: nel 2007 è stato introdotto Street View, quindi già siamo andati ad aggiungere un elemento che ti permetteva, attraverso la mappatura fatta da quelle che tutti conoscono come le Google Car, la mappatura delle strade intorno a noi e delle vicinanze. È stato aggiunto poi il traffico in tempo reale: per chi viaggia in auto è fondamentale il più delle volte sapere che cosa ci aspetta prima di arrivare, o per poter arrivare nei tempi previsti ad un certo punto verso cui siamo diretti. Per cui i grandi cambiamenti sono rappresentati dal fatto di dalla portata, diciamo, del servizio in qualche modo offerto agli utenti. Certo, adesso sì, c'è un'evoluzione che è culminata probabilmente l'anno scorso con l'inserimento della realtà virtuale, quindi adesso abbiamo delle informazioni che si sovrappongono a delle immagini reali, rendendo appunto questa esperienza forse ancora più intuitiva. Sì, e tutto questo grazie a quello che poi ha chiesto l'utente, perché il cambiamento di Google Maps è dato dal fatto che sono cambiate le esigenze. Se prima ci dovevamo semplicemente muovere, nel tempo abbiamo chiesto sempre di più a una mappa. Io ricordo quando sono arrivata a Milano che avevo il mio tutto città, e stiamo parlando di 20 anni fa. Adesso non solo riesco ad arrivare a casa o da un amico, ma riesco a sapere se nel tragitto c'è un ristorante di cui magari ho bisogno o un negozio che invece mi interessa visitare, dove voglio acquistare, e soprattutto se sono a piedi, per esempio, posso sapere se quel puntino, quella indicazione blu che io trovo sulla mappa, è in realtà una direzione a destra o a sinistra. Questo con la realtà virtuale, o meglio la realtà aumentata di cui parlavi prima. Quindi tutti questi cambiamenti hanno fatto sì che le mappe servano, vengano utilizzate con uno scopo molto più ampio. Dicevi prima tutto questo grazie anche alle richieste degli utenti. Ecco, come funziona l'interazione con gli utenti? L'interazione con gli utenti, in questo caso si parla di feedback. Se chi usa Google Maps sa che può mandare può contribuire a Google Maps, sono le cosiddette i contributi generati dagli utenti, può mandare dei feedback tipo questa mappa, questo tragitto è in realtà sbagliato. Una delle grandi novità che sono state introdotte a partire dall'annuncio, dalla celebrazione dei 15 anni, è proprio una sezione delle mappe di Google Maps che si chiama Contributi. Ogni anno centinaia di milioni di persone danno il loro contributo per aggiornare Maps. Ecco, con questa scheda di contributi è possibile, molto più chiaro e molto intuitivo, lasciare o comunicare delle informazioni locali, dei cambiamenti di una strada, di indirizzo, luoghi mancanti, molto molto più intuitivo, perché è immediatamente visibile nelle sezioni dell'app. Ecco, tu hai anticipato una delle novità che sono state introdotte per festeggiare questi 15 anni, quali sono le altre? La prima è quella che secondo me è un po' la direzione verso cui sta andando Maps. C'è se noi apriamo l'applicazione, veniamo condotti direttamente verso una sezione che è quella Esplora, che era meno chiara prima. Adesso è divisa, è la prima la sezione che noi incontriamo, è se cerchiamo un posto nelle vicinanze per mangiare con degli amici, ascoltare musica, possiamo trovarle direttamente consultando questa scheda Esplora, dove ci sono informazioni, recensioni su luoghi di tutto il mondo. Un'altra importante scheda è quella Tragitto, che ti permette di vedere l'intensità di traffico del tuo tragitto giornaliero, conoscere magari delle strade che possono essere delle buone alternative laddove il tuo tragitto sia più lungo, più trafficato del normale, per cui una soluzione anche lì per aiutarti a risolvere un problema che è fondamentalmente il problema che abbiamo tutti oggi, il tempo. C'è un'altra scheda che secondo me è molto utile, che è la scheda novità, che contiene un feed alimentato da esperti o editori locali che ti permette di conoscere le località o gli accadimenti di tendenza, gli eventi di tendenza in un determinato luogo. Io per esempio stavo consultando questa sezione poco fa, questa scheda poco fa, e ho visto che ci sono delle mostre che mi possono interessare nell'area in cui gravito quotidianamente, per cui diciamo che questa maggior chiarezza e maggior immediatezza nel presentare i risultati richiesti normalmente dall'utente di Map. Certo, quindi un servizio che diventa sempre di più un'alternativa non solo alle normali mappe stradali, ma anche a tutti quei sistemi di informazione e di supporto che ci servono a capire cosa ci succede intorno. Abbiamo parlato della storia di questi 15 anni di Google Maps, abbiamo parlato delle novità che sono state introdotte quest'anno per festeggiare questo compleanno. Quali sono le prospettive future di questo strumento? le prospettive vanno sempre nella direzione di esplorare veramente il mondo intorno a noi. E questa l'ottica in cui ci dobbiamo avvicinare a Google Maps, che aiuta a risolvere un tuo problema se ti trovi in una determinata area, per cui tutto andrà in questa direzione. Il fatto stesso che Live View, che è la possibilità di vedere in realtà aumentata lo spazio intorno a noi, non è un cambiamento da poco, al contrario, ti permette veramente di orientarti in una determinata zona. Da questo punto di vista, quindi, la realtà aumentata è uno dei cambiamenti più evidenti e più impattanti che vedremo nel futuro, questo sicuramente. Bene, e allora, in attesa di questi ulteriori cambiamenti, noi salutiamo e ringraziamo la nostra ultima ospite, Emanuela Locci, responsabile della comunicazione di prodotto di Google Maps. Grazie per essere stata con noi questa sera e per averci raccontato un po' questo strumento che ormai ci accompagna abbastanza abitualmente durante tutti i nostri spostamenti, strumento che, come quelli raccontati nel corso della prima parte del nostro spazio, è totalmente gratuito, lo vogliamo ricordare per tutti gli utenti. Termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. L'appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità torna come al solito sabato intorno alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.